A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. C'è una terra in Italia dove si spara contro preti e donne e a volte non fa rumore né troppa notizia. C'è una terra in Italia dove aiutare disabili o far pagare le bollette dell'acqua può essere un gesto rivoluzionario e per questo dare fastidio. C'è però anche una terra in Italia dove gli stessi preti, le stesse donne e gli stessi sindaci alla fine resistono agli spari, alle bombe, alle delegittimazioni e restano per cambiare quella terra, la loro. È questa la storia recente della Calabria, una terra dove la normalità di uomini coraggiosi sta dimostrando che cambiare si può e la vita può essere scandita da regole diverse rispetto a quelle imposte dall'andrangheta. Capita così che donne come Giuseppina Pesce o Maria Grazia Cacciola decidano di collaborare con la giustizia senza preoccuparsi delle conseguenze anche drammatiche. Come capita che un sacerdote come Don Giacomo Panizza sia arrivato da Brescia per resistere a Lamezia alle minacce di ripetuti attentati o che sindaci di tre città come Maria Carmela Lanzetta di Monasterace, Elisabetta Tripodi di Rosarno e Caterina Girasole di Isola Capo Rizzuto, invece di mollare, alla fine scelgano di fare rete e andare avanti. Questa settimana è alla Calabria che resiste e a quella che delinque, che noi diamo ancora una volta a ciascuno il suo, a cominciare da un prete coraggioso che con modi gentili ma inflessibile determinazione sta cambiando la testa della gente a Lamezia Terme fin dal giorno in cui ha preso un palazzo tolto al più potente clan locale, i Torcasio, per il suo progetto sud in difesa dei disabili e da allora ora ha avuto una sfilza di attentati. Dopo che a Natale hanno messo una bomba davanti all'ingresso di quella casa, dopo che il 26 febbraio hanno sparato dentro la casa, in cucina, e a Pasqua hanno sparato vicino all'entrata, c'è una sala finesca, e hanno sparato due colpi a 3 o 4 metri di distanza dentro casa, insomma, ecco. Noi pensavamo che le intimidazioni erano finite. Il 29 febbraio abbiamo fatto una manifestazione grandiosa con tantissima gente, perché che ci capiscano che comunque noi non è che ci mettiamo a pagare il pizzo o cose di questo tipo. Queste altre pallottole ci dicono che forse sognano qualcos'altro. Don Giacomo, lei a chi dà fastidio? Lei e la sua attività in assistenza soprattutto di disabili, migranti, quindi insomma di fasce ulteriormente deboli in una terra già così difficile, quindi nulla a che vedere con la gestione di potere no. E di soldi. A chi dà fastidio lei? Noi non abbiamo in ballo cose economiche da poter fare concorrenza a qualcuno, no? Se non anche un pezzo di attività sulla raccolta differenziata, ma sono quei quattro soldi che fanno lavorare un po' di gente che è uscita dalla psichiatria, da gente che è uscita per i ritroveri di droga, i soldi, il denaro, gli appalti, anche perché non siamo in questi mondi qua. E credo che allora il problema sia proprio quello che tanta gente sta perdendo la fiducia nelle garanzie dell'andrangheta. C'è l'andrangheta che dice vi aiuto io, vi aiuto io, vi aiuto io, perché aiuta poi sottomettendo la gente, invece noi aiutiamo liberandola la gente. C'è un problema culturale, credo. Le indagini non arrivano da nessuna parte. Ricordiamo che anche l'edificio in cui la sua attività si svolge, l'ho visto sì. A Lamezia, è un edificio che è stato sequestrato appunto ad una delle famiglie più potenti di 'ndrangheta della zona, un edificio che nessuno voleva neanche come utilizzo di uffici pubblici. Quindi forse ancora una volta è un messaggio rivolto a chi non vuole adeguarsi alle regole del territorio. Siamo vicini alla realtà, alla verità, credo, perché adesso ultimamente abbiamo preso anche un'altra struttura confiscata di altre persone. Il punto qual è? Che lì si vede, è visibilissimo che lì stiamo raccogliendo un sacco di fiducia nella gente. C'è gente che va e viene da queste case, da morte che erano, sono diventate popolatissime, ci facciamo teatro, ci facciamo assistenza, ci facciamo cineforum, ci facciamo incontri più culturali. C'è un via vai di iniziative che rompe quel silenzio e quell'equilibrio sì. Fatto di sì. Precise regole che invece invece fino adesso era stato tramandato, era stato questo, diciamo, è saltato, sì. Questo dito sulla piaga. Se questo è il punto e quindi questo può essere l'indice di una rivoluzione e forse di un cambiamento ancora più profondo rispetto alle proteste per la gestione di un singolo bene confiscato alla mafia oppure della gestione di una singola e precisa fetta di affari, questo forse però dal suo punto di vista può essere ancora più pericoloso. Sì, io ho un programma di protezione e mi stanno proteggendo, insomma, ecco. Andare a cambiare la testa della gente è ancora più difficile, ancora più pericoloso e rischioso che andare ad aprire un palazzo tolto all'Ndrangheta. Mi consola che siamo in tanti, cioè, differentemente dall'inizio, no? 10 anni fa quando ho cominciato con questa casa, adesso tanti mi affiancano, facciamo insieme, dai Boy Scout per dire all'Arci, ecco, no? Ecco, Don Giacomo, ma lei appunto ha ricordato tutta la successione di minacce pesantissime, da una bomba a spari ripetuti, ma ha avuto mai un messaggio esplicito, un messaggio riconducibile ad una richiesta precisa, ad una minaccia precisa, circostanziata, ad un gruppo preciso? Quando è successo che mi hanno minacciato di uccidermi, questo sì, c'è stato anche un processo, questo uomo è entrato in galera, no? Lei faceva riferimento a quando lei è arrivato a Lamezia, cioè quando lei da Brescia ha deciso di trasferirsi in un terreno così difficile, sì. È allora che risalgono le sue minacce più precise, più circostanziate, giusto? Sì, invece negli ultimi episodi che sono gravi, l'emittente non lo conosco, non si mostra, insomma. Le indagini vediamo dove porteranno, ecco, speriamo che qualcosa si capisca, perché è meglio sapere, insomma. Ad un uomo di fede forse questo non va chiesto, ma lei ha paura? Sì, io ho paura. Però la paura non è tutta la mia vita, è un pezzo della mia vita. Ci sono tante altre cose che sono grandiose e la paura certe volte mi fa bene, quindi c'è di tiri in terra, ecco, diciamo così. Cioè forse la porta ad essere meno imprudente oppure no? Mi fa camminare coi passi della gente, magari a me viene in mente di andare a 100 all'ora, mentre invece la paura, vedendola anche negli occhi degli altri, mi dice vai a 30 all'ora. È arrivato anche a lei una confessione di una voglia di cambiare anche da parte di persone vicine alle famiglie malavitose? Sì, il quadro è questo qui, proprio una pensosità più profonda rispetto a questi temi e anche una decisione differente dal passato, che era quella dello stare zitti. Oggi non si accontentano di piacere, stanno facendo una bella parte. C'è gente che le discute a viso aperto e questo non l'avevo visto nel passato. Lei non ha mai pensato di mollare? Penso tante cose, tra cui anche quello di mollare, ma non nel senso di arrendermi, di mollare se ci sono altri che portano avanti. Insieme al dire quasi quasi mollo, la parola finale è sempre qui, noi, non io. Noi andiamo avanti, perché siamo tanti. Finché non c'è una linea dritta che costruire una strada contraria a quella di arrendersi alla mafia, io sto qua. Resiste lui, resistono le tre donne alla guida di paesi difficili come Monasterace, Rosarno e Isola Caporizzuto. Resistono nonostante la loro vita sia in pericolo. A ciascuno il suo. Hanno sentito bombe esplodere contro i loro portoni o spari scoppiare contro di loro. Hanno visto le loro auto andare in fiamme insieme a volte anche alle loro attività. Hanno letto lettere di minacce di morte e hanno avuto paura, però alla fine hanno scelto di non mollare e di restare e sono diventate quasi un simbolo, il simbolo di una Calabria che resiste. Sono le tre donne alla guida di Monasterace, Rosarno e Isola Caporizzuto. Le chiamano Sindaco Coraggio e le hanno invitate tutte e tre insieme per il 25 aprile della legalità a Reggio Emilia. Ero proprio lì, in Calabria, nel giugno del 2011, quando un incendio distrusse la farmacia di Maria Carmela Lanzetta, sindaco di Monasterace, e per poco quel fuoco non uccise anche la sua famiglia che abita al di sopra. Pensai che in qualsiasi altro posto fosse successa una cosa del genere, la reazione sarebbe stata massima. Invece, nella Calabria dell''Ndrangheta era solo un'ennesima intimidazione ad un sindaco che non si piega. Poi, quando sono arrivati gli spari, il sindaco aveva annunciato il passo indietro per non mettere a rischio anche i suoi parenti. Ma la mobilitazione e il sostegno sono stati tali che alla fine lei, la Lanzetta, ha sospeso quella scelta, come ha raccontato ad Alessandro Milan. Non ho cambiato idea, ho sospeso perché c'è stata una reazione grande dello Stato, quindi è una forma di rispetto per tutti coloro che si sono impegnati per Monasterace. Fare il sindaco in uno di questi paesi della provincia di Reggio Calabria è difficilissimo per le condizioni economiche che ci sono. A Monasterace è drammatica il problema del lavoro. Avevamo una bella tradizione di donne lavoratrici nell'agricoltura, nelle serre florovivaistiche di Monasterace, e oggi sono senza stipendio da 2 anni, nell'impossibilità per i giovani di trovare lavoro e quindi nella partenza da parte dei giovani, sia laureati che non laureati, verso il nord, si ha un indebolimento costante di quello che è la vita sociale ed economica del paese. Ed è lì che la criminalità organizzata va a insinuarsi. È chiaro, perché trova spazio. Lei che, che attentati ha subito, ce lo vuole raccontare? Lei è la farmacista, allora, tra l'altro, sì, del paese. Io sono farmacista, già nella prima amministrazione 3 macchine di 2 amministratori, di 2 assessori sono state bruciate, e quello è stato già un avvertimento molto molto pesante. Poi a meno di un mese dalla rielezione mi è stata completamente bruciata e devastata la farmacia. Tra l'altro noi abitiamo sopra. Avete rischiato anche l'incolumità fisica? Sì, sì, personale, sì, assolutamente. Da questo momento lei è sotto scorta. Ci sono tre carabinieri che... Sono seguiti, tra l'altro, fra un attentato e l'altro, una serie di fatti molto molto inquietanti, anche rivolti ad alcuni assessori della mia giunta. Poi a fine marzo le pistolate, proprio i colpi di pistola verso la macchina e verso la serranda della farmacia. E qui ho deciso che non potessi io più fare il sindaco. È vero che suo figlio le ha detto: mamma, non ci pensare più a tornare a fare il sindaco, per carità? Beh, tutta la famiglia. Nonostante ciò lei ha deciso per il momento di provarci, ecco, almeno. Ci proviamo, le ripeto, per un grande, grande rispetto che ho verso lo Stato e verso persone, sia che abbiano una carica pubblica, sia persone, semplici cittadini, che mi hanno dimostrato una solidarietà enorme e mi hanno chiesto di riprovarci. Lei in passato ha detto in una recente intervista: io in fondo che cosa facevo da sindaco? Pretendevo che la gente pagasse per esempio le bollette dell'acqua. Non ho fatto niente di speciale, anzi abbiamo dei risultati per niente apprezzabili. Anche perché io sono fortemente critica con il mio operato. Nessuno sbandigliamento di grandi successi. Dì. Qui ogni cosa, la cosa più normale possibile, ogni piccolo passo è scavalcare una montagna. La normalità di far pagare le bollette o di approvare un bilancio trasparente, la normalità di far rispettare le regole. In un paese della Calabria a volte anche questo può essere un gesto pericoloso, e Maria Carmela Lanzetta ha condiviso la sua vicenda, tra l'altro, pure con 2 altre donne nella sua stessa situazione, sotto scorta per aver cercato di portare la normalità nel loro comune, e hanno fatto rete. Tra loro Caterina Girasole, primo cittadino di Isola Caporizzuto. Penso che sia io che sindaco di Monasterace, quella di Rosarno, quello che stiamo facendo è sicuramente cercare di dare un contributo ad una buona amministrazione. Abbiamo subito delle reazioni da parte di qualcuno che non sappiamo se è la malavita organizzata. Certo non ci siamo fermate perché siamo convinte che non ci si può fermare davanti a un atto intimidatorio, no? Siamo insieme a lottare non solo quindi per i nostri paesi, ma per tutta la Calabria, per dimostrare che questa è la Calabria vera. Che tipo di intimidazioni ha subito? Macchine bruciate, il portone del comune bruciato, lettere anonime, il comune più volte saccheggiato. Io subisco continuamente intimidazioni attraverso un blog anonimo, no? Giornalmente, puntualmente, è un modo di intimidire, comunque di condizionarti la giornata. È comunque un modo di intimidire, un metodo, io dico, mafioso, che agiscano nel silenzio in maniera subdola, avvileggiando, infangando le persone e sicuramente facendo perdere quella serenità che si perde sicuramente quando un atto intimidatorio viene perpetrato ai danni comunque di un dipendente comunale, di un amministratore. Ci sono stati proiettili mandati ai consiglieri in occasione di alcuni consigli comunali importanti, quando anche il voto di un consigliere serve a mantenerti la maggioranza. Lei ha mai pensato di mollare? Mollare è sicuramente un pensiero che molte volte, no, nel silenzio, nella solitudine che capita, ti viene in mente. Mollare, insomma, è scontato, ma non è sicuramente la soluzione, perché qualche altra persona poi ci sarà al nostro posto a subire le stesse cose. Diciamo che non è la soluzione, piuttosto questa è la soluzione: fare rete, far capire quali sono i problemi, cercare soluzioni, proporre al governo un apporto, perché ci sono sicuramente modi per dare risposte ai cittadini, per dare a noi sindaci la possibilità di essere efficaci nella nostra attività, perché quello che molte volte ti lascia deluso è l'inefficienza, ecco, della macchina burocratica. Quando lei e la sua amministrazione avete subito appunto delle intimidazioni più forti, erano legati all'approvazione di qualche progetto particolare, erano legati a qualche momento particolare della vostra attività amministrativa? Noi la reazione più grossa l'abbiamo avuto dopo l'approvazione del primo bilancio vero politico approvato da noi. Dava prospettive, perché avevamo presentato un piano triennale delle opere pubbliche molto interessante. Secondo me quello che ha scatenato quelle reazioni appunto dell'incendio delle tre macchine in quattro notti è stato probabilmente questa capacità di dimostrare che effettivamente è possibile avere un'alternativa, di dare stabilità amministrativa, e probabilmente, ecco, è questo che non viene accettato. È molto meglio l'incertezza, l'instabilità, la confusione. Questo permette probabilmente alla malavita organizzata di portare avanti i propri interessi. La rete è la parola della svolta in Calabria. La rete e la solidarietà, come quella che portò Maria Carmela Lanzetta, sindaco di Monasterace, a stare vicino ad Elisabetta Tripodi, che guida un comune difficile come Rosarno. Una lettera che mi veniva inviata da un ergastolano esprimeva le critiche sul mio operato, dicendo che tutta questa mia attività era legata a dei pregiudizi che io avevo, soprattutto per quanto riguardava la costituzione di parte civile in un processo di mafia e lo sgombro di una casa abusiva. Sappiamo che cosa vuol dire in un territorio come quello calabrese e in una zona come quella di Rosarno che lei amministra, che cosa vuol dire un messaggio di questo tipo. Siamo una città normale, una città in cui le regole vengono rispettate e vale per tutti. Quello che più mi dà fastidio non è tanto la pressione della criminalità, quello che mi preoccupa di più è invece la delegittimazione che spesso accompagna l'operato dei primi cittadini. Una delegittimazione che viene fatta circolare in maniera strisciante tende a demolire l'operato di chi amministra in una realtà del genere. Io ritengo che è molto più forte nei confronti delle donne, dei sindaci donne, perché è molto più facile attaccare una donna che amministra in territori difficili. C'è sempre una cultura del potere, una cultura politica coniugata al maschile, c'è una forma di attacco diverso. Ecco, ci faccia degli esempi concreti, che vuol dire? Che tipo di attacchi? Ho ricevuto anche delle lettere di insulti, ho insultata su Facebook, non riguarda solo me, riguarda anche l'esperienza di altri sindaci donne, in questo ci siamo confrontate, e per il fatto che mi sia stata affidata una tutela, una scorta, cioè sminuire il senso delle minacce che mi sono state rivolte. In fondo cosa è stato? È stata una semplice lettera, e questo viene fatto serpeggiare anche nei cittadini. Ho sempre detto che Rosarno è una città fatta per la maggior parte da cittadini che sono stati oppressi da un potere. Finalmente ci è stata una reazione da parte delle forze dell'ordine, questa pressione è stata molto forte e questo ha permesso di dare segnali di speranza alla cittadinanza. Questa attività di delegittimazione a cui lei faceva riferimento è la stessa che viene molto spesso messa in atto anche con chi cerca di collaborare con la giustizia, come ad esempio negli ultimi tempi anche molte donne ancora una volta hanno cercato di fare, e ancora una volta appunto seguendo meccanismi che ormai sono consolidati, perché li abbiamo già visti in Sicilia, li abbiamo già visti anche in Calabria negli anni passati. Si parte da un tentativo di delegittimare chi cerca di collaborare e chi cerca di raccogliere quelle collaborazioni, ossia i magistrati. Lei nota questa consonanza? Sì, guardi, perché si tende sempre a dire che comunque quelle che sono le donne, che poi rappresentano, io credo, in Calabria in questo momento, il vero elemento di novità, sia sul fronte, diciamo, delle nuove forme di pentitismo, di collaborazione con la giustizia, sia rispetto anche a quello che è il ruolo delle delle amministrazioni locali in questo momento, in un momento in cui forse c'è la possibilità che le donne sono più aperte ai cambiamenti e quindi di essere portatrici, perché meno legate al potere, di valori diversi. A ciascuno il suo, termine qui. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate dal sito radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche su iTunes, ma ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra precedente trasmissione, e sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.